Ecco, è da stamattina, da quando ho visto che non c'era più il baule, che sento gli sguardi di tutti su di me, che mi giudicano. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 6, quasi 7 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Perché funziona così, cioè funziona che il più delle volte non serve avere rubato un tesoro, aver investito qualcuno sulle strisce pedonali, avere dato fuoco a una casa per sentirsi terribilmente in colpa. No, è sufficiente fare una piccola cosa. Una cosa che magari è insignificante per i più, però misteriosamente per noi è colpevole. Basta veramente poco per essere tormentati per giorni e giorni dai sensi di colpa. Basta ad esempio avere rubato un fumetto a 10 anni per essere torturati da quel rimorso ogni volta che passiamo davanti a quell'edicola. È sufficiente aver detto una piccola cosa fuori posto, aver fatto una gaffa, anche minuscola, che so, ad una cena tra amici ad esempio. Qualcosa che ha messo in difficoltà una persona, una, o peggio, una coppia, per sentirsi un carnefice ogni volta che si incontrano con le persone o che si ripensa quella sera. Sono delle piccole cose che sfuggono al nostro controllo, alla nostra impeccabilità, che proprio perché ci sono scivolate via dalle mani, ci sono scivolate via senza che le potessimo gestire, ci tornano indietro come un boomerang, con questo effetto, con l'effetto devastante di un senso di colpa macroscopico. Lo schiaffo tirato a un compagno di classe al liceo, il biglietto non pagato per entrare a un concerto, un dispetto fatto a un collega che ancora non ha capito da chi gli è arrivato, una lettera anonima scritta per mettere qualcuno in difficoltà, il diario di un amico letto di nascosto, oppure il cassetto del fidanzato aperto per controllare chissà cosa, una bolletta non pagata, una tassa evasa, un furtarello, uno strappo alla regola, o uno strappo alle regole, quelle del vivere civile. Una cosa che nemmeno noi ci saremmo aspettati da noi stessi. Ecco, una cosa piccola, che però non si capisce bene come, ma in qualche angolo nascosto della nostra coscienza, rode come un tarlo. Piano piano, senza far troppo rumore. Ma che anche adesso, se ci pensate, in questo momento preciso, pensateci 2 secondi, lo sentite? Sentite quel senso di colpa come punge. Io, come al solito, oggi vi racconto la mia. Se voi volete raccontare la vostra, io sono qui. Forse mio figlio non è perfetto, ma il mio cuore mi dice che non è un taccheggiatore. Aspetta, mamma, non voglio che tu veda questa cosa. Confesso. Bart, non mi sarei mai aspettata una cosa simile da te. Oh, Bart. Non bisogna per forza essere come Bart, non si deve per forza avere rubato qualcosa. Però ogni tanto basta fare veramente delle inezie per poi roderci nei sensi di colpa. 800 24 0024 per chiamare in diretta, oppure 349 238 6666 per mandare un sms. Davvero, non pensate a qualcosa di grosso e di terribile che avete fatto. Provate a pensare ma a una cosa piccola che avete fatto magari proprio con la mano sinistra, che avete fatto non pensandoci, oppure che qualcosa che vi ha proiettato in uno spazio che non era il vostro. Ecco, esattamente quella cosa lì, quella che ancora adesso, quando ci pensate, vi fa sentire in colpa. 800 24 0024. Lucia, ad esempio, si sente in colpa perché questa cosa la sta vivendo oggi, come mi scrive sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Io oggi mi sento un po' in colpa perché non sono andata al lavoro e ho preso un giorno di malattia. Non sto male, sono semplicemente andata dal medico curante, roba di una mezz'oretta. Però non è giusto, e qui parte la rabbia, però non è giusto che io debba andare in ufficio a lavorare per gli altri. L'ho sempre fatto, ma mi sta stancando. Non è giusto che io debba controllare il lavoro di persone più alte in grado di me, persone con ruolo di responsabilità formale maggiore del mio. Tutto questo il mio capo lo sa ed è d'accordo con me in linea di principio. Sa anche che non sono malata, ma che mi sento giù e quindi vada per il giorno di malattia. Insomma, ho ragione su tutta la linea, eppure mi sento in colpa. 800 24 0024. Emilio, Mi sento in colpa ogni volta che vedo un ragazzo che a Capodanno presi a botte per sbaglio. Le prese sul serio, nonostante ora sia tutto chiarito, mi sento troppo in colpa. Ragazzi, ma prima di... a parte che la gente non si pesta, in generale, è proprio una roba che non si fa, a meno che Emilio tu non abbia 16 anni, ma anche a 16 anni magari meglio di no, però almeno certificate che sia lui quello che dovete picchiare. Già un'altra volta è successo, ti ricordi? Era arrivato un messaggio di uno che l'aveva date, non mi ricordo più, credendo che fosse il fidanzato di qualcuno, non era Emilio, era un altro messaggio. Paola. Ah no, Paola ci fa un po' di morale. Le piccole abiezioni commesse con la garanzia dell'impunità sono quelle che sommate rendono il mondo peggiore. Su Paola, stai su, stai su. Rossana, se parliamo di piccole cose che ci fanno sentire più in colpa, io posso dire quando butto una cicca senza incartarla. Una cicca intesa come una... non una cicca di sigaretta, ma un chewing gum, ok? Siamo ancora la carta da buttare per terra, hai ragione. C'è ancora gente che butta la carta per terra. Guarda, questo è moralismo puro, ma io quando vedo gente che butta la carta per terra, dico... non dico niente, perché non è che glielo vado a dire, però mi sembra la cosa veramente più incivile. Basta che te la metti in tasca la carta. 800240024 349-238-6666. Marica, il mio senso di colpa nasce quando si sbaglia il momento per fare una chiamata, per mandare un sms. Marica, però non è che la chiamata puoi avere un radar che sai quando farla. E poi c'è questa di Giorgio, è magnifica. In aeroporto uno straniero con un cartello con sopra scritto: non parlo italiano, per favore chiama questo numero e segnala che sono arrivato. Evidentemente c'era un numero scritto sul cartello. Mi ha chiesto aiuto, ma io gli ho detto di non avere soldi sul cellulare. Me ne sono pentito un attimo dopo. Quando l'ho cercato non l'ho più trovato. L'ho cercato per tutto il Terminal 2 di Malpensa e alla fine ho chiamato per lui. Sono comunque rimasto dilaniato dal senso di colpa per delle ore. Esattamente, esattamente questo. E fai bene, Giorgio, fai bene a dilaniare. Anzi, ti dico di più. Secondo me tu, dopo che non l'hai chiamato, hai anche buttato per terra una cicca non incartata da una parte e dall'altra parte il pezzo di carta della cicca. 800240024 349-238-6666. Si parla di sensi di colpa per piccole cose, i vostri e ora il mio. Quando sono tornato a casa stanotte, Nathalie dormiva. Ero stato a cena con Giulia. Lei era stata gentile e avevamo fatto tardi. Sono rientrato in casa come un ladro. Era come se la casa non fosse più la mia. Era diventata il luogo in cui Nathalie riposava prima di una nuova giornata. Ed è diverso, eh? Non ero stanco, avevo voglia di fare una doccia. Per fortuna, camera da letto e bagno sono distanti. Non credo di averla svegliata. Mi sono comportato come sempre. Anche se era tardi, ho acceso la TV per vedere se c'era qualche programma in diretta. Dello sport, ad esempio. Che da quando si vedono i canali americani si possono vedere un sacco di eventi dal vivo, anche di notte. A me piace pensare che sto facendo esattamente quello che sta facendo qualcun altro, ma a 10.000 km di distanza. Soprattutto per cose inutili, tipo il baseball, l'hockey. Non so perché, ma mi rassicura. Insomma, ho seguito la mia routine e poi mi sono infilato a letto. Quando ho aperto gli occhi la mattina, Nathalie non c'era. Mi sono spaventato. Ma ero io ad essermi svegliato un po' più tardi del solito. Quanto basta per non vederla fare colazione? Noi abbiamo orari diversi, però di solito cerco di alzarmi con lei, a costo di dormire di meno. Così passiamo più tempo insieme. Che mi spiaceva proprio stamattina. Anzi, ero preoccupato. Che è una cosa che succede quando sei innamorato, oppure quando hai la coda di paglia. E io, che ero sia innamorato sia con la coda di paglia, ero a posto. Cioè, ero preoccupato perché non sapevo con che faccia fosse uscita di casa Nathalie. Insomma, non sapevo se era arrabbiata per qualcosa oppure no. Ho pensato di mandare un sms, però sarebbe stato sospetto, sarebbe stato un segno di colpa, perché di solito prima delle 11 io non la sento. Ed era sicuramente meglio mantenere le stesse abitudini. Non per altro, per evitare di svegliare chi anche dorme, però. E per poter poi cascare meglio dal pero, dopo, magari ce ne fosse stato bisogno. Dovevo sbrigarmi anch'io, perché la biblioteca non è che aspetta me e non si apre da sola. Girando tra cucina e bagno, stanza da letto, mi rendo conto però che c'è qualcosa di diverso. E la cosa mi mette in allarme, perché non so bene cosa sia. Però avete presente quando capisci che c'è qualcosa fuori posto ma non sai cos'è? È un po' come quando incontri il tuo giornalaio allo stadio. Lo guardi bene e sai che lo conosci, però non l'hai mai visto altro che incorniciato tra fumetti porno e riviste di storia, quindi ci metti un po' a salutarlo. E solo mentre stavo uscendo mi sono accorto che in sala mancava qualcosa. Mancava il baule di Natalie. Il baule che lei aveva sempre tenuto chiuso. Il baule che per me era un ornamento, ma per lei no. Il baule di Natalie non c'era più. But if you have to go, I promise you that on my own it would be known that I was trying not to grin and bear it. Cause in the winter, winter, I'll lend you my warmest sweater. I would not want you to get cold. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando sai che hai fatto qualcosa che non dovevi, o che era meglio non fare, ti senti in colpa. È così, e non importa la grandezza della questione. Se non hai fatto niente di grave o se hai ammazzato qualcuno, il senso di colpa c'è sempre. Certo, può essere un po' più grosso o un po' meno. Però io stamattina sono uscito di casa molto preoccupato, ma molto. Il baule di Natalie era chiaramente la cosa più preziosa che lei possedesse, e non c'è dubbio che portarlo via fosse un segnale gigantesco. E nella mia testa non un bel segnale. Ad esempio, la prima volta che andai a Parigi avevo 18 anni. Ero con i miei due compagni di viaggio preferiti. Era la nostra prima avventura da soli, ci sentivamo grandissimi. Mentre eravamo tre maturandi, eravamo tre stupidi in fuga dalla mamma. Insomma, un giorno in giro per i mercatini della Rive Gauche mi sono capitati in mano degli occhiali da sole, di quelli veramente brutti, cioè di quella roba che se li metti perdi almeno due diottrie. Costavano, non mi ricordo neanche più, una cifra esigua, tipo 3 franchi, che poi erano 1000 lire. Insomma, me li sono presi senza pagare. Me lo ricordo ancora, fu il mio gran gesto di ribellione dei 18 anni. Ecco, da quel giorno, per il resto della vacanza, ogni bussare alla porta, ogni sguardo verso di me, ogni poliziotto per strada, mi ricordava che ero un colpevole. Ero come Raskolnikov, che aveva ammazzato la vecchia. Ero Lady Macbeth, con le mani sporche di sangue. Ecco, è dall'altra mattina, da quando ho visto che non c'era più il baule, che sento gli sguardi degli altri su di me, che mi giudicano. Almeno in biblioteca c'è stato l'arrivo della terza cartolina di Giovanni e di Viola quando sono arrivato. Dice che sono felici perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare e sono molto fiduciosi sul futuro, loro e del bambino, se verrà. Almeno ci avranno provato fino in fondo. Ciccio e Nonna Papera sono felicissimi e mi distraggono un pochettino dal mio malessere. Mi lascio contagiare e festeggio con loro bevendo un crodino, anzi due, che oggi mi va così. Alle 11 chiamo Natalie, che però mi liquida velocemente dicendo che ha una cosa urgente da fare, che però l'aria oggi finalmente è pulita. E io prendo anche questo come un segnale, un pessimo segnale, e non so come regolarmi. Di nuovo il senso che tutti mi guardino, ancora una volta le mani sporche di sangue. Arrivano un paio di signori e restituiscono dei libri. Io li guardo con sospetto. Chissà, forse stavolta sono loro a sentirsi giudicati. Beh, gli sta, qualcosa di male l'avranno fatta sicuro. Tutti leggono le stesse cose, mamme che chiedono racconti per i bambini, magari con dentro dei pezzi di stoffa da toccare, e uomini che chiedono libri di storia. Io dovrò leggere Delitto e Castigo, lo so, e sono lì che mi chiedo dove ho sbagliato, anche se lo so benissimo dove ho sbagliato. E poi a un certo punto arriva un tizio, un signore piuttosto anziano, elegante ma poco in forma, che mi restituisce un libro con una copertina bellissima, un libro che non avevo mai sentito prima. Si chiama In un milione di piccoli pezzi. Basta veramente poco per sentirsi in colpa. 800240024. Vi leggo qualche messaggio. Alle scuole medie una ragazza teneva i piedi su una sedia e io per sedermi gliel'ho levata, per poi scoprire che stava così perché si era fatta male alla gamba. Mi sento ancora in colpa dopo 10 anni. Lorenzo, 17 anni fa sono andato a pagare e come sono arrivato sulle piste mi hanno fregato gli sci. Sono andato a pagare, immagino, lo ski pass. Preso dallo sconforto mi sono fregato a mia volta un paio di sci all'uscita di un bar. Ancora ci penso, se potessi li ripagherei immediatamente al proprietario. Andrea, senso di colpa per non avere fatto la differenziata e poi ho buttato il pacchetto in condominio di un altro paese. Antonio, quella della differenziata effettivamente anche l'altra sera ero a casa di amici e ogni volta è una roba tipo, ma questa non andrebbe qua, è carta, non... Vabbè dai, la mettiamo qua giusto perché non so dov'è l'altra. Se mi dici dove è la carta è fuori, vabbè dai, però stavolta buttiamola qua. Questo è il futuro della differenziata in Italia. Sabato sera vediamo una coppia, dopo tanto tempo io esclamo: "Ehi, chi non muore si rivede". Era morto il papà di lui da una settimana. Però questo non c'entra, questa è proprio una gaffe. Cioè, capisco come si possa sentire in colpa. Da oltre 3 anni sono pervaso dal senso di colpa per il dubbio che mio zio, all'epoca malato terminale, abbia potuto sentirmi dire a mia zia che secondo me stava peggiorando. Antonio. Antonio, però ormai come dire, no? Pace alla sua anima. E questa è quella proprio che, leggendolo questo messaggio, prima ha avuto un tuffo al cuore. Terza superiore, 1983, San Valentino, festa al primino. Cosa vuol dire San Valentino? La festa al primino non è San Valentino. Non c'è San Firmino? Vabbè, chi se ne frega. Usciamo prima dalla scuola e aspettiamo quelli della prima. Arriva quello definito più tonto e più debole. Per farmi forte davanti agli altri lo affronto e senza motivo gli mollo un ceffone. Lui mi guarda in lacrime e mi dice: "Perché?" Guarda, non so se è tipo Michele da Palermo. Devo dire che questo racconto mi strugge. Mi ricordo ancora un racconto fatto da un esploratore che raccontava di quando era naufragato con la sua nave al Polo Nord, credo, e insieme alla persona con cui era naufragato, per sopravvivere dovettero uccidere un cucciolo di orso, e lui si sentiva ancora in colpa per questa cosa, proprio perché ricorda gli occhi della madre di questo piccolo orso che li guardava straniti, un po' come questo bambino che dopo il ceffone gli chiede: "Ma perché?" Va bene, se non voglio deprimermi istantaneamente, direi che andiamo a sentire subito Pierluigi, perché Pierluigi mi ha mandato questo messaggio oggi. Mi sono sentito tremendamente in colpa quando ho bucato non una, tutte e 4 le gomme della macchina alla professoressa sbagliata. Avevano tutte e 2 una Panda grigia con gli stessi interni ed erano parcheggiate vicino. Pierluigi! Eccoci, pronto Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Bene, bene, grazie. Senti, Pierluigi, raccontami questa storia. Come gliel'hai bucate innanzitutto le gomme della macchina? Ho usato un piccolo stratagemma perché avevo bisogno di un alibi credibile io. Cioè. Io, siccome montavo dei pannelli di cartongesso a casa, ho rubato quelle viti, sai, quelle nere, quelle affilate letali proprio. Cioè, delle lunghe viti? No, delle lunghe, sono abbastanza corte, però sono molto affilate, possono bucare anche la gomma. Uh-huh. Io l'ho usate per, cioè, praticamente l'ho appuntata dietro la gomma della macchina, e in modo che quando la professoressa spostava la macchina, quelle entravano nella gomma. Ah, quindi non hai nemmeno fatto fatica, cioè proprio semplicemente le hai piazzate sotto prima che partisse? Praticamente sì. Solo il problema è che, siccome tutte e 2, cioè c'era la mia professoressa di latino e quella di italiano, avevano la stessa macchina, una Panda. La Panda. La Panda è in qualche modo la macchina delle professoresse di italiano, o perlomeno lo era, non so adesso. Ed era una Panda grigia, dicevi? Panda grigia, interni neri, e anche con la targa abbastanza simile. Quindi proprio è stata una cosa... Ma tu sei rimasto lì a guardare? Io avevo la classe che dava con la finestra sul parcheggio dei professori. Sì. E stando vicino alla finestra mi sono guardato tutta la scena. Solo che quando ho visto la mia professoressa italiana, che peraltro ho anche una discreta stima per questa professoressa, andare sulla macchina, diciamo, sabotata... Mi è preso un attimo lo sconforto, perché è possibile che ho sbagliato. Cioè, ti è uscito proprio il tipico "no". Sì, quello là, anche durante la lezione, peraltro. Ma Pierluigi, quanti anni hai adesso, scusami? Io ho 21 anni. Quindi quando succedeva questa cosa? Al liceo. Cioè, tipo 3-4 anni fa? Sì, no, anche di meno. Anche di meno? Pierluigi, senti, vuoi chiedere scusa in diretta alla tua professoressa di italiano? Sì, io chiedo scusa alla mia professoressa d'italiano e il prossimo treno di gomme lo offro io. Pierluigi, grazie mille e in bocca al lupo. Cosa fai adesso nella vita, Pierluigi? Ingegneria, a Tor Vergata. Bravo, mi raccomando, scegli bene le macchine. Sì, sceglierò meglio sicuramente. Ciao, buona giornata Pierluigi, grazie ancora. Grazie. Adesso la borsa e poi Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Yo estoy aquí. Nella foto di oggi siamo in un soggiorno, in una sala da pranzo forse, comunque a casa di qualcuno. È una casa che, se non fosse per il delirio che c'è per terra, sembrerebbe una casa ordinata. C'è un bel parquet tirato a lucido, c'è un pianoforte a muro nero e anche questo che brilla, c'è una grande TV a schermo piatto. Devo dire, questa è una roba orribile invece, mi perdonerà lo scattatore della foto. C'è una chaise longue di mucchina, di vacca, sì, come se fosse una mucca, è proprio brutta. Ma il vero soggetto di questa fotografia sono dei giocattoli, chiaramente di bambini tra forse i 3 e i 7, 10 anni, che riempiono come un campo minato tutto quanto il parquet del soggiorno. Donata Pellissari, 35 anni, Vicenza. Questo è il mio salotto dopo che sono passati i miei due piccoli uragani. All'inizio riordinavo quotidianamente, ma ci ho rinunciato. E ogni volta che guardo questo disordine, io sorrido. Io sono qui. Donata, tu sorriderai pure, però io per questa chaise longue in mucchina qua un po' in colpa mi sentirei. Come cresci sti bambini con sta roba? Cosa penseranno della sua mamma che c'ha una chaise longue di mucca nel soggiorno dove loro, carini, giocano come due cicloni, no, com'è che li ha definiti? Uragani che si aggirano per la stanza. 349-238-6666 800-24 0024. Piccole cose che fanno grandi sensi di colpa. Francesco, mio figlio ha rotto una bottiglia di olio appena comprata alla fine di una pessima giornata. L'ho sgridato troppo, sono stato malissimo per giorni. Francesco, credo che vale chiedergli scusa, credo. Avere bagnato tutti i vestiti appesi nello spogliatoio alla squadra avversaria, oggi non lo rifarei, forse. Francesco. E poi c'è ancora Fiore da Treviso, non ci credo, Fiore. Io sto ancora cercando l'occasione per dire a mio padre che io e la mia ragazza abbiamo intenzione di trasferirci in Australia e lui è il mio titolare ed è un casino. Lo so che è la cosa giusta per noi, ma di certo lui non capirà. Cosa faccio? Aiuto. Fiore, diglielo, chiama qua, dacci il numero di tuo padre e glielo dico io piuttosto. Guarda, così la finiamo, perché ogni volta fa venire i sensi di colpa a me quasi. Ho spiato il diario di un collega. Ah, giustamente prima Tiziano diceva solo uomini quei sensi di colpa. No, anche qualche donna. Ho spiato il diario di un collega, ma dopo non mi sono sentita in colpa perché c'era scritto che mi odiava. Ho fatto bene e da allora ne sono stato alla larga. Annalisa, andiamo invece a sentire qualcuno che è al telefono. Andiamo da Francesco a Brescia. Pronto Francesco? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Bravo, senti, ma hai la radio acceso per caso, Francesco? No, ti sento tipo in un microonde. Ho il viva moce, aspetta che... Mi senti meglio adesso? Ora sì, sei in macchina? Sì, sono in macchina. Raccontami, allora, Francesca. Francesca, buonanotte, Francesco. Dimmi. No, a me è successo 20 anni fa e da allora ho un senso di colpa. Avevamo fatto un viaggio d'estate a trovare uno zio che abitava in Venezuela. Sì. E questo zio aveva una fabbrica e aveva creato un orfanotrofio per bambine e avevano organizzato una festa a queste bambine per festeggiare gli italiani che le aiutavano e che mandavano fondi. Allora avevano fatto spettacolo e tutto. Mm-hmm. Alla fine è arrivata una bambina bellissima di 2 anni, 3 anni che mi porta una torta al cocco. Io odio il cocco. Sì, beh, che devi fare? Però... l'ho rifiutata e questa bambina ha fatto una faccia che io da allora sto male. E da allora ho imparato a mangiare il cocco, mangio il melone, bevo caffè, tutte cose che odio, però se me le offro non le prendo. Sì, è una forma di espiazione, espiazione da quel senso di colpa, Francesco. Assolutamente. Ma hai detto quanti anni fa, scusami, 20? 20 anni fa, io adesso ho 37 anni, ero piccolo e... però mi è rimasto ancora come se fosse oggi quella faccia. Francesco, vabbè, ti ringrazio moltissimo. Ciao, buona giornata, grazie. Mi scrive, non so se è la stessa Donata o qualcuno che ha visto la fotografia di Donata, quella sedia, quella chaise longue, è una Le Corbusier ed è esposta al MoMA di New York. Ma ragazzi, vi ringrazio, lo sapevo che era una sedia Le Corbusier, sta di fatto che c'è la vacchina sullo schienale, che è una roba che fa metà Gilda e metà... sì, metà film anni 70 con Edwidge Fennec. Ho messo in imbarazzo un'amica regalandole uno Swarovski, ora mi sento in colpa. Maurizio. Ma perché, scusami, perché, cioè, perché faceva schifo lo Swarovski? Oppure perché credeva fosse... Non ho capito il messaggio. Ho visto per strada due bolletti che prendevano a calci lo zaino di un compagno che era chiaramente in difficoltà e non sono intervenuto solo perché avevo fretta. Sono passati due giorni e ancora ci penso. Jacopo, andiamo da Paolo, andiamo a Bologna. Pronto Paolo? Buongiorno, buonasera Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, raccontami questa cosa dei nonni, che un pochettino posso capirla. No, infatti, soprattutto perché io ti ascoltavo ieri, sì, e ho ascoltato tutta la trasmissione in cui hai messo in onda la nonna. Il dialogo, sì, ha spezzettato con la nonna e mi ha veramente commosso, sì, oltre che mi ha fatto tornare su quel famoso senso di colpa di cui tu stai parlando oggi. Cioè, ieri, scusami, fammi capire, ieri sera con la nonna ti ha fatto salire i sensi di colpa? No, io purtroppo non ce l'ho più la nonna, col tuo... Con la mia nonna, intendo dire, sì, con la mia nonna. Cioè, tu ieri mi hai dato lo spunto, la trasmissione di ieri mi ha dato lo spunto per l'argomento di oggi, tuo, quindi... quindi dimmi qual erano... Stai condizionando un po' la mia vita, non esagerare Paolo, ti prego, cosa fai nella vita Paolo? Faccio l'elettricista, impianti elettrici. Oh, finalmente uno che guadagna, cavolo, elettricisti e idraulici. Da Massi, poi tra l'altro Paolo, ne parliamo di questa cosa, perché una volta che cerca un elettricista, una volta, sono due settimane che sto dietro un elettricista. Purtroppo io non sono a Milano, sono a Bologna. No, ho capito, non sto dicendo che ho bisogno di te, sto dicendo però che ogni volta, guarda, passo da casa tua verso mercoledì non posso, allora ci vediamo tra 10 giorni, ma vabbè, ma lasciamo stare, andiamo alla nonna. Qual è il senso di colpa nei confronti della tua nonna? Beh, nei confronti dei nonni in generale, perché non posso fare assolutamente preferenze, e della mia nonna, quella materna, che è l'ultima che ho perso, uh-huh, in tempo di tempo, ma perché fondamentalmente il senso di colpa è quello che un po' ci portiamo dentro molte persone di noi, uh-huh, e non dandogli la smisurata importanza che hanno i nonni quando li abbiamo al mondo, accorgendocene invece della smisurata importanza che hanno quando purtroppo non ci sono più. Paolo, quanto tempo fa l'hai persa la tua nonna? Una decina d'anni fa. Ok, però eppure rimane ancora. Paolo, ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona giornata. Grazie anche a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo, ce la facciamo, sì, andiamo da Raffaele a Milano. Pronto Raffaele? Sì, pronto, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, tu sei un giornalista, mi pare di capire. Sì, io mi occupo di una rivista che tratta di energie rinnovabili. Questa mattina, diciamo che il mio senso di colpa nasce da una figuraccia involontaria, quindi un senso di colpa strano, perché ce l'ho, ma non è stato cattivo come causa. Cioè? E l'idea è questa: stamattina c'era una conferenza stampa di una grande azienda, passa a prendermi il mio direttore e tiriamo su lungo il tragitto un nostro collega di una rivista concorrente, mm-hmm, ma col quale appunto c'è un rapporto di amicizia, eccetera. Verso la fine della conferenza usciamo, ci sono i banchetti con le riviste, io prendo su una rivista e dico al mio direttore: come sono indietro questi? Sono rimasti a impianti, a articoli fatti su impianti l'anno scorso, ed era la rivista dove scriveva appunto il collega al quale avevamo dato un passaggio. Beh, però era tutto vero, no? Era tutto vero. Sì, era tutto vero, ma totalmente gratuito e fortuito. Per cui vedere l'occhiata del mio direttore che diceva no. Senti, hai cercato di rimediare oppure sei andato dritto? Io sono della scuola di andare dritto. Ottimo, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Buttarla sul traffico o sulla partita di domani. Raffaele, ti ringrazio moltissimo. Buona giornata, ciao. E ascolta Mr. Kilowatt, che lui è avantissimo, Maurizio. Ciao, grazie Raffaele. No, mica che poi faccia una critica anche a, capito, Mr. Kilowatt, e allora raddoppiava. L'ultimo messaggio, 349-238-6666. Ho forato con uno spillo i profilattici di mio fratello. Sono diventato zio di una bellissima bambina, non l'ho mai confessato e mi pesa. Aldo, io non so se sia vero, perché questa è veramente una leggenda metropolitana. Se è così, però sei veramente un bastardo. Adesso vorrei chiudere invece con un racconto secondo me spiega meglio di tutti i racconti che sono arrivati oggi, spiega meglio di tutti che cos'è quel senso di colpa per una cosa minuscola che hai fatto in una epoca e in un'età di cui ancora non avevi non avevi ancora consapevolezza delle cose e che ti rode anche oggi. Ero davvero piccola, a casa di amici dei miei. Giocavo con la loro figlia. Lei si vantava della quantità immane di giocattoli posseduti. La bambina in questione, tra tanti giochi che non suscitavano nessun interesse in me, possedeva però la puffetta mancante. Era bellissima, perfetta, senza alcun attributo aggiunto, ma soprattutto era la puffetta che mancava alla mia collezione. Sbattuta lì, senza importanza, tra le miriadi di giochi, mi sembrò un abominio. Non ci ho pensato un attimo e con la brama di Gollum me la sono infilata in tasca. Arrivata a casa l'ho messa in bacheca con le altre e mi sono sentita fiera. Le avevo reso il suo giusto posto d'onore. Ma subito dopo, immancabile, è arrivato il senso di colpa. Fu il primo, quello che ricorderò per sempre. Avrei quasi voluto restituirla, o confessare almeno, ma la Nemesi non ha tardato a bussare alla porta. Poco tempo dopo abbiamo traslocato e io ho perso la puffetta. L'avevo persa. Ho tuttora la collezione quasi completa. Ancora mi rode, ma mi rode di più essermi bollata da sola come baby ladra alle elementari. Max da Torino, terza media, compito in classe di italiano. Come fare per non farlo? Il giorno prima cerchiamo in giro per il paese la prof. Sapevamo che al pomeriggio portava con la carrozzina il pupo a fare una passeggiata. La vediamo, accendo un raudo e via. Il raudo si infila nella carrozzina. Per fortuna non succede niente al figlio. Il giorno dopo, compito in classe, voto 9. Non me lo perdonerà mai. Ciao, Max. Grazie Max, grazie anche a Stefano D'Andrea, Paolino Corleoni, a Viola, a Viola Bottoni e Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?